I giorni in cui Albertine riteneva più assennato restare a Saint-Jean-de-la-Haize per dipingere, io montavo sull'auto e prima di tornare a prenderla potevo andare non solo a Gourville e a Féterne, ma anche a Saint-Mère-le-Vieux e persino a Criquetot. Pur fingendo d'occuparmi di tutt'altro ed essere costretto a trascurarla per altri piaceri, non pensavo che a lei. Molte volte non mi spingevo più in là della grande piana che dominava Gourville. E poiché assomiglia un poco a quella che comincia sopra Combray, in direzione di Meseglise, anche trovandomi a notevole distanza da Albertine, avevo la gioia di pensare che se i miei sguardi non potevano raggiungerla, più lontano di loro sarebbe arrivata la potente e dolce brezza marina, che dopo avermi sfiorato, sarebbe scesa, senza incontrare alcun ostacolo, fino a Cateaulme. Avrebbe mosso i rami degli alberi che seppelliscono Saint-Jean-de-la-Haize sotto il loro fogliame, accarezzando il viso della mia amica e gettando così un doppio legame fra lei e me in quel rifugio infinitamente ingrandito, ma senza pericoli, come in quei giochi nei quali due bambini si trovano ogni tanto fuori dalla portata della voce e della vista l'uno dell'altro e pur essendo lontani, continuano ad essere uniti. Al ritorno percorrevo strade da cui si scorge il mare e dove in passato, prima che apparisse fra i rami, chiudevo gli occhi per pensare che ciò che stavo per vedere era proprio il gemebondo avo della terra, dedito, come ai tempi in cui non esistevano ancora esseri viventi, alla sua agitazione delirante e immemorabile. Adesso quelle strade non erano più per me che il mezzo per raggiungere Albertine. Quando le riconoscevo identiche, sapendo già prima fin dove sarebbero andate dritte, dove avrebbero curvato, ricordavo di averle percorse pensando a Mademoiselle d'Estermaria e anche che la stessa ansia di rivedere Albertine l'avevo provata a Parigi, percorrendo le strade per le quali passava Madame de Germont. Assumevano per me la monotonia profonda, il significato morale d'una sorta di linea seguita dal mio carattere. Era naturale, tuttavia non era indifferente. Quelle strade mi ricordavano che era mio destino inseguire soltanto dei fantasmi, esseri la cui realtà, per buona parte, stava nella mia immaginazione. In effetti, ci sono persone, ed era stato sin dalla giovinezza il mio caso, per le quali tutto ciò che ha un valore fisso, verificabile da altri, la fortuna, il successo, le posizioni brillanti non contano. Ciò di cui hanno bisogno sono i fantasmi. Ad essi sacrificano tutto il resto, fanno tutto il possibile, si servono di tutto per ritrovare quel certo fantasma. Ma questo non tarda a svanire, allora se ne rincorre un altro, salvo poi tornare al primo. Non era la prima volta che cercavo Albertine, la fanciulla vista il primo anno davanti al mare. Altre donne, è vero, s'erano interposte fra l'Albertine amata la prima volta e quella che in quei giorni non lasciavo quasi mai. Altre donne, in particolare la duchessa di Guermont. Ma ci si chiederà, perché darsi tanta pena riguardo a Gilbert, tormentarsi tanto per Madame de Guermont, se poi, diventato amico di quest'ultima, finivo col non pensare più a lei, ma soltanto ad Albertine? Swann, prima di morire, avrebbe potuto rispondere, lui che era stato collezionista di fantasmi. Di fantasmi inseguiti, obliati, nuovamente cercati, a volte per un solo incontro e per toccare una vita irreale che subito si dileguava, quelle strade di Balbec erano piene. Se pensavo che i loro alberi, i peri, i meli, le tamerici, mi sarebbero sopravvissuti, mi sembrava di riceverne il consiglio di mettermi finalmente al lavoro, fin tanto che non era ancora rintoccata l'ora del riposo eterno. Smontavo di vettura a Cateaulme, scendevo di corsa per la ripida strada infossata, passavo il ruscello sopra una tavola e trovavo Albertine. che dipingeva davanti alla chiesa gremita di guglie, spinosa e rossa, fiorita come un rosaio. Solo il timpano era liscio, e alla superficie ridente della pietra affioravano angeli che continuavano, davanti alla nostra coppia del XX secolo, a celebrare con i ceri in mano le cerimonie del XIII. Era il loro ritratto che Albertin cercava di fare sulla sua tela preparata e, imitando Elstir, dava grandi pennellate, tentando di obbedire al nobile ritmo che, le aveva detto il grande maestro, rendeva quegli angeli così diversi da tutti gli altri a lui noti. Poi raccoglieva i suoi attrezzi. Appoggiati l'uno all'altra, risalivamo la strada infossata, lasciando la chiesetta, tranquilla, come se non ci avesse nemmeno visti, ad ascoltare l'incessante rumore del ruscello. Presto l'auto riprendeva la corsa, facendoci percorrere, al ritorno, una strada diversa da quella dell'andata. Passavamo davanti a Marcouville l'Orgueilleuse. Sulla sua chiesa, per metà nuova, per metà restaurata, il sole declinante stendeva una patina bella come la patina dei secoli. Al di là di essa, i grandi bassorilievi trasparivano come attraverso uno strato fluido, tra liquido e luminoso. La Santa Vergine, Santa Elisabetta, San Gioacchino galleggiavano ancora in quel vortice impalpabile, quasi a secco, a fior d'acqua o a fior di sole. Innalzandosi da una polvere calda, le numerose statue moderne sergevano su colonne sino a mezza altezza dei veli dorati del tramonto. Davanti alla chiesa, un grande cipresso sembrava al centro d'una sorta di recinto sacro. Scendevamo un istante a guardarlo, allungando un po' la passeggiata. Oltre che delle sue membra, Albertin aveva una consapevolezza diretta del suo cappellino di paglia e della sciarpa di seta, che erano per lei la sede di non meno intense sensazioni di benessere, e ne riceveva, mentre faceva il giro della chiesa, un altro genere di impulso, tradotto in una contentezza inerte nella quale trovavo però della grazia. Sciarpa e cappellino erano solo una parte recente, avventizia della mia amica, ma che mi era già cara e di cui seguivo con gli occhi la scia sul fondo del cipresso, nell'aria della sera. Lei non poteva vederla, ma aveva il sospetto che quelle eleganze le stessero bene, perché sorridendomi badava ad armonizzare il portamento del capo con l'acconciatura che lo completava. «Non mi piace, è restaurata», mi disse mostrandomi la chiesa, e ricordando quel che le aveva detto Elstir sulla preziosa, inimitabile bellezza delle vecchie pietre. Albertin sapeva riconoscere subito un restauro. Era impossibile non stupirsi della sicurezza di gusto che già possedeva per l'architettura, in contrasto con il suo pessimo gusto musicale. Quella chiesa non piaceva a Elstir e neanche a me. La sua facciata illuminata dal sole non m'aveva procurato alcun piacere quando m'era comparsa davanti agli occhi ed ero sceso a guardarla solo per essere gentile con Albertin. Eppure trovavo che il grande impressionista fosse in contraddizione con se stesso. Perché quel feticismo del valore architettonico oggettivo senza tenere conto della trasfigurazione della chiesa nella luce del tramonto? Decisamente no, riprese Albertin. Non mi piace. Mi piace il suo nome, Orgueilleuse. Bisognerà ricordarsi piuttosto di chiedere a Brichot perché semmai si chiama Le Vêtue. Ci andremo la prossima volta, non è vero? Mi diceva guardandomi con i suoi occhi neri sui quali la tesa del cappellino era abbassata come un tempo il piccolo polo. Il velo ondeggiava. Risalivo in auto con lei, felice che il giorno dopo dovessimo andare insieme a Saint-Marc, i cui due antichi campanili color rosa salmone dalle tegole a losanga, leggermente pendenti e come palpitanti, somigliavano, in quelle giornate caldissime durante le quali non si pensava che ai bagni, a vecchi pesci aguzzi, coperti di squame imbricate, muschiosi, rossicci, che senza aver l'aria di muoversi, s'alzassero in un'acqua trasparente e azzurra. Lasciata Marcouville, per abbreviare il percorso, giravamo a un incrocio dove c'è una cascina. A volte Albertin faceva fermare lì e mi chiedeva ad andare da solo a cercare per consentirle di berlo nell'auto del Calvados o del sidro, dal quale, benché ci assicurassero che non era spumante, venivamo tutti innaffiati. Eravamo stretti l'uno contro l'altra. Quelli della cascina intravedevano appena Albertin nella vettura chiusa. Io tornavo a restituire loro le bottiglie. Ripartivamo come per continuare quella vita solo nostra, quella vita d'amanti che essi potevano attribuirci e di cui quella sosta per bere non sarebbe stata che un momento insignificante, supposizione che sarebbe parsa ancor meno inverosimile se ci avessero visto dopo che Albertin aveva bevuto la sua bottiglia di sidro. Sembrava infatti che non potesse più sopportare, fra lei e me, una distanza che abitualmente non la infastidiva. Sotto la gonna di tela, le sue gambe si stringevano contro le mie. Avvicinava alle mie le sue guance, che erano diventate livide, calde e rosse ai pomelli, con un che di ardente e appassito come nelle ragazze dei sobborghi. In quei momenti, oltre che di personalità, cambiava e quasi altrettanto rapidamente di voce. Perdeva la sua per prenderne un'altra, rauca, ardita, quasi abietta. Cadeva la sera. Che piacere sentirla contro di me, con la sua sciarpa, il suo berretto, ricordandomi che proprio così, fianco a fianco, siamo abituati a vedere gli innamorati. Forse amavo Albertin, ma non osavo darglielo a vedere, così che se questo amore esisteva in me, era solo come una verità che non ha alcun valore fin quando non si sia potuto controllarla con l'esperienza, cosa che mi sembrava irrealizzabile e al di fuori del piano della vita.